Partito Comunista Greco ha indetto una manifestazione davanti all'Enichika Liguria, è una fabbrica occupata da diversi mesi dai lavoratori, che però si trova fuori da Atene. Poi i vari sindacati hanno chiamato a Piazza Colchia, il Partito Comunista di Sinastismo ha chiamato a Omonia, però non c'era tanta gente. Tutti gli altri sindacati di base, gente di sinistra extraparlamentare, sono radunati davanti al museo. C'è stata una manifestazione, non c'è stata tanta gente, cioè io posso calcolare una 7-8 mila persone, non di più. In questo momento si sta sciogliendo la gente, perché la manifestazione è finita, cioè siamo passati da sindaco e adesso stanno sedendo verso Piazza Omonia con tanta gente che si è fermata davanti all'università. Ecco, ma sono previste altre manifestazioni? Nel pomeriggio? No. Ho capito. No. Come pensi? Cioè, si sembrava che alla vigilia, insomma, nei giorni scorsi fosse una grande partecipazione. Come mai questa cosa sottotono, diciamo così? Non lo so, forse la gente si è stancata, forse non crede più alle forme di lotta, perché non vede un risultato. È stato il fatto che oggi c'era poca gente. Va bene. E comunque ci sono dei scioperi, non so se l'avete saputo, ci sono dei scioperi al porto di Pireo, ci sono quattro sindacati che hanno indetto uno sciopero e nessuna nave è partita da ieri notte fino a stanotte praticamente. Senti, è arrivata al porto di Pireo. Ah, quindi continua, insomma, una mobilitazione che però va avanti da diverse settimane con vari scioperi. Sì. C'è, come vi dicevo, c'è lo sciopero dei lavoratori dei lavoratori in mare. Senti, Tasso, un'altra questione che è di questi giorni è l'apertura di questo primo centro di detenzioni per migranti a Migdalesa, no? Io ho visto le foto, è qualche cosa di abbastanza inquietante, ci sono decine e decine di container che ospiteranno, per così dire, queste persone. È una cosa vergognosa per la democrazia greca avere campi di concentramento per gente che per causa nostra è scappato dai loro paesi. Praticamente tutte queste persone che vengono in Grecia sono persone che non chiedono di fare non so che cosa, vogliono vivere liberamente, vogliono vivere in pace. E queste persone qua, pakistani, soprattutto afghani, eccetera, arrivano in Grecia spendendo una barca di soldi e vivendo in un modo, un viaggio terribile, perché spendono tanti soldi con tanti rischi per arrivare fino alla Grecia. Arrivano in Grecia fino adesso per Dublino 2 che hanno firmato i nostri governanti, non possono partire per un altro paese di destinazione e così praticamente si trovano in Grecia prigionieri. Fino adesso riuscivano a vendere qualcosa per strada o a lavorare destra e sinistra e vivere liberamente, adesso li prendono come se fossero delinquenti e li mettono la loro delinquenza, che non hanno praticamente i passaporti, perché li lasciano ai viaggiatori, ai accompagnatori turchi, e li bruciano per poter chiedere asilo politico qua e di conseguenza non hanno i fogli di viaggio e così sono chiusi ad Amigdalesa. E c'è cose d'altro mondo, no? Certo, senti, c'è stata anche una grossa campagna, diciamo così, sanitaria da parte delle autorità, che ha portato a rastrellamenti soprattutto ad Atene di tutte le persone che evidentemente anche per i loro caratteri fisici sembravano non greci e sono state sottoposte, a quanto ho letto, a controlli sanitari obbligatori con la scusa che hanno malattie infettive. Ma è una cosa vergognosa anche questa. Adesso che la gente non ha da mangiare, che invece il 25% della popolazione praticamente non ha un lavoro, si parla di 1.200.000 lavoratori che sono disoccupati in questo momento, e questi qua si occupano degli stranieri che creano una bomba sanitaria nel centro di Atene, perché i poveretti dormono in catapecchie e spendono 5 euro di notte ai loro compaesani per dormire e cercano di guadagnare il vivere vendendo varie cose da niente proprio nelle strade di Atene. Hanno la polizia comunale che li corre dietro e li prende la roba, hanno la polizia che li massacra di botte e li arresta e li porta in Amigliallega o in altri posti di confinamento, e appena uno comincia a protestare eccetera eccetera prende anche delle botte. Senti, su questa tasso, su questo provvedimento dei centri di detenzione per gli immigrati, sono tutti d'accordo i partiti politici o ci sono diversità? Perché sembra una vittoria della destra proprio in senso assoluto questa. Ma è una vittoria della destra, perché sono stati loro a puntare tutto su stranieri, ma è anche un fatto che hanno usato anche i vari partiti di governo, sia il PASOK che la Democrazia Cristiana, la nuova democrazia di Samaras, per poter raccogliere i voti che scappavano a destra, capisci? È anche un problema serio il fatto che ci sono migliaia di persone che si radunano in mezzo alla strada, che chiedono l'elemosina o puliscono i vetri delle macchine per poter sopravvivere. Solo che in questo modo hanno spostato il discorso politico sul discorso dei lavoratori clandestini, scusate, in questo momento ci sono dei scontri qua a Fiatomber, e ci sono queste, cioè praticamente mi devo spostare, mi prende qualche pietra in testa. Ci sono questi lavoratori che praticamente pagano proprio per il loro colore, pagano proprio per il fatto che in questo momento si gioca la democrazia in Grecia, cosa allucinante. Stavi dicendo che ci volano delle pietre lì da te, ci sono degli scontri? Sì, a mio fianco proprio, a mio fianco. Infatti sto scappando perché... Ma con la polizia? Sì. Ho capito, la polizia ha caricato i manifestanti? No, sono i manifestanti praticamente. Che hanno caricato la polizia, ho capito. A spaccare le pietre e tirano sulla polizia, la polizia cerca di tenere un ruolo un pochettino... non da attaccare ma da difendersi, perché ci sono i fatti politici e allora non vogliono mandare la polizia a caricare la gente, cioè il costo politico, no? Va bene Tasso, non ti vogliamo fra l'altro far correre rischi, quindi invece di parlare con noi magari vedi un po' tu. Abbiamo, che era un candelotto? Credo che sentite qua i spari. Infatti, va bene, allora ti lasciamo, magari eventualmente ci sentiamo più tardi per fare un po' un bilancio completo. Stati della giornata. Ciao. Ciao. Ciao.